Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. I ragazzi vanno a prendere le macchine fotografiche e si mettono a fare foto. Io e la mia amica portiamo via le tazzine e dopo un paio di minuti riguardiamo fuori e vediamo che l'incendio si è avvicinato. Sono Daniela, vivo a Milano, ho 45 anni, ho 3 figli, lavoro, mi sono laureata in economia tanti anni fa. Non so se avete mai provato a spegnere un fuoco, non è una cosa che succede tutti i giorni fortunatamente, a meno che non si spenga la brace del barbecue con una secchiata d'acqua, che comunque non è ortodosso. Spegnere un fuoco è una roba abbastanza complicata, infatti c'è gente che lo fa di mestiere ed è formata per farlo. Qualche anno fa, mentre facevo un corso per diventare istruttore in una scuola di vela che si trova sull'isola di Caprera, che è un posto magnifico dove sono andato diversi anni, tra le varie cose, oltre al corso per il pronto soccorso eccetera eccetera, c'era un corso per spegnimento dei fuochi. In realtà la cosa era abbastanza particolare perché non era così ufficiale, c'era un ex istruttore della scuola che aveva evidentemente avuto esperienze da vigile del fuoco, ma non era un vigile del fuoco, e ci sostanzialmente faceva lanciare sopra una tanica di cherosene incendiata per soffocare il fuoco con una coperta. Era una cosa che ad oggi ricordo come una cosa pericolosissima, anche perché in quelle zone c'è sempre molto vento, però lo ricordo lui infuriatissimo: presto presto, addosso, e ti devi buttare con tutto il corpo questa coperta e coperta per spegnerlo, in quel caso per soffocare il fuoco per mancanza di ossigeno. Insieme a questo episodio mi ricordo alle spalle due vigili del fuoco invece della zona, che erano chiamati lì appunto quando si faceva questo esperimento, questa sorta di breve corso per il spegnimento del fuoco, che venivano chiamati ed erano lì con un'autoclave nel caso succedesse qualcosa. E mi ricordo questi due signori sardi che, guardando con un tono, con un'aria anche un po' di commiserazione, noi che cercavamo di spegnere fuochi in una tanica di cherosene, dicevano: qui se scoppia un incendio col vento che c'è, fate una cosa, prendete i ragazzi e ve ne andate fuori dalle palle. Questo più o meno è la mia esperienza di spegnimento dei fuochi che accade una decina d'anni fa, perché oggi parliamo di questo, parliamo di incendi, parliamo di vacanze dove purtroppo spesso accade e di fuochi che si avvicinano e portano con sé quell'aura di inquietudine. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, arriva un messaggio sul profilo Facebook di questo programma che ci manda Pietro, il profilo Facebook invece è Voi Siete Qui, Radio 24. Ero in Spagna in vacanza e l'incendio che arrivò, avevamo raccontato la storia di un incendio già in Spagna, adesso non ricordo, credo una stagione passata, e l'incendio che arrivò quasi fino al residence dove ci trovavamo con i miei genitori, ricordo che rilasciava nell'aria un odore intenso di spezie, simile a una droga. Erano decine di eucalipti andati in fumo. Quell'odore lo sento ancora oggi fortissimo. 349-238-6666. Se vi è capitato di essere così vicini ad un incendio, a quella roba lì che è potentissima ed è terrificante ed è soverchiante, insomma, che a un certo punto capisci che non puoi fare nulla contro un fuoco che si avvicina. 349-238-6666, dicevo, è il numero di SMS per scriverci, altrimenti abbiamo un profilo Facebook che vi ho già dato, o un profilo Twitter che anche quello ormai conoscete, Voi Siete Qui R24. Domenica non ci sono più posti a disposizione, però noi siamo al Salone Nautico a raccontare storie di mare. Oggi incendi, domenica di mare. Questa invece è una sola storia, parla sia di mare, parla di incendi, ed è la storia di Daniela. Stavamo bevendo il caffè dopo pranzo in una villetta da 8 posti letto in Corsica, vicino a Porto Vecchio, a 800 metri dal mare. Eravamo 4 ragazzi e 4 ragazze. 2 in quel momento erano in città, per problemi alle moto. Quando improvvisamente la luce cambia e diventa arancione. Usciamo a vedere e si vede sulle colline un incendio. I ragazzi vanno a prendere le macchine fotografiche e si mettono a fare foto. Io e la mia amica portiamo via le tazzine e dopo un paio di minuti riguardiamo fuori e vediamo che l'incendio si è avvicinato. Eravamo in Corsica nelle vacanze estive, eravamo 8 ragazzi di 20 anni. Il vento soffia verso il mare, ci guardiamo in faccia e ci capiamo al volo. Chiudiamo tutto. I ragazzi un po' ci deridono, noi però chiudiamo tutto, dalle persiane al gas alla corrente, e ci avviamo verso la spiaggia, anche i ragazzi con le auto. Arriviamo in spiaggia e la gente non si è ancora accorta di nulla. Ci sono persone che giocano a palla in acqua. Nel giro di poco però le fiamme sono a ridosso della spiaggia. saranno alte 8-10 metri. È abbastanza impressionante. I ragazzi intanto si sono messi a fare i posteggiatori e a fare sistemare in due file sulla spiaggia le macchine. È una baia rotonda, le macchine stanno arrivando in continuazione. Dicono a noi ragazze di andare sulla punta tra le due baie. Noi ci consultiamo e decidiamo che no, lì non va bene. Il fuoco sarebbe arrivato da due parti e noi saremmo stati in pericolo. Così, senza dire niente, o meglio, senza dire niente a loro, ognuno per sé, Dio per tutti, pensiamo. Entriamo in acqua e saliamo sul primo yacht che arriva. Con le scarpe annodate al collo, le bottiglie d'acqua e i soldi nel marsupio. È una barca di italiani, di Roma, che appena sentito il messaggio della capitaneria si è mossa e sono venuti a salvare le persone. Ci portano a Porto Vecchio, al porto. Entriamo alla capitaneria di porto, siamo quelli dell'incendio, diciamo. Lì però non ne sanno ancora nulla, siamo le prime. Stiamo diverse ore lì, al porto, le strade sono chiuse, i Canadair buttano acqua. Cellulari non esistono ancora, o non per la gente comune, almeno. Poi, non mi ricordo come, ma rientriamo a casa. Penso che forse ci vengono a prendere, sono chilometri di distanza. Noi, in casa, non abbiamo nessun danno, la casa è perfetta. La portinaia, invece, che ha lasciato tutto aperto ed è scappata, ha fuliggine ovunque e ha pure le impronte sui muri lasciate dal gatto impazzito dallo spavento. L'incendio non è spento, così decidiamo di fare dei turni di sorveglianza notturni di 2 ore a testa. A me tocca quello dall'una alle 3 di notte. Faccio una fatica pazzesca a stare sveglia. Cammino nel giardino del complesso con una coperta sulle spalle. Mi sembra di essere uno dei condor di Robin Hood. Ci sono i tronchi degli ulivi che ardono, rossi alla base, senza brace. Forse l'emergenza non c'era, ma noi non eravamo per niente tranquilli perché continuavano a bruciare le piante, gli alberi proprio, i tronchi. I Canadair hanno buttato acqua sulle case per salvarle. La macchia mediterranea invece è tutta bruciata. Gli aerei vanno avanti per 3 giorni a buttare acqua, mentre siamo in spiaggia loro passano, sfiorano la superficie del mare come i pipistrelli o le rondini e caricano, e poi vanno a buttarla sui boschi. Successivamente verrò a sapere che sono stati incendiati 30 km di costa e che l'incendio si vedeva perfino dalla Sardegna. Mi restano delle foto di paesaggi che sembrano in bianco e nero, mentre invece non lo sono. Mi resta anche la consapevolezza di poter affrontare qualsiasi emergenza, ovviamente gestibile. Mi resta un'amica. Sono passati 21-22 anni e credo che con tutti i vari social ora sarebbe molto diverso. O forse no. There is fire on the mountain and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top and no one is running. There is fire on the mountain and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire. È in una chiara tenuta da turista, Daniela, nella foto che ci ha mandato e che trovate come sempre sul nostro sito radio24.it, alla nostra pagina, quella di Voi Siete Qui. Ha su un bel vestito bianco, un cappellino, 2 cappellini in mano, quindi tiene anche il cappello della persona che sta fotografando, è davanti a un edificio bellissimo, c'è un sole estivo e lei è molto sorridente. Pronto Daniela? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Dove ti trovi in questa foto che ci hai mandato? È quest'estate? Sì, mi trovo a Ravenna e la Basilica di Santa Apollinare in classe. Ok, perfetto. Era quindi il 2014. 2014, cioè, quest'estate, sì. Qua. E invece che anno era quella del racconto dell'incendio? Dovrebbe essere il 90. Quindi eri una ragazzina, perché sei giovanissima. Sì, 20, 21. 21 anni, con un po' di esperienza di Boy Scout. No, era la tua amica che aveva esperienza di Boy Scout, no, era scrivevi. La mia amica, sì. Ok, Daniela, raccontaci esattamente che tipo di vacanza era. Era una vacanza di amici giovanissimi, in moto, in macchina? Era una vacanza di compagni di università più altre persone, qualcuno in moto, qualcuno in macchina, un po' tutto misto. Andavamo in spiaggia di giorno, giravamo tutta l'isola, andavamo nelle varie spiagge, ogni giorno una spiaggia diversa. Senti, c'è mai stato un attimo vero di panico durante questa giornata? Perché tu la racconti con molta tranquillità, c'è il fuoco, andiamo in spiaggia, sta arrivando, andiamo in barca, insomma tutto come se fosse quasi naturale, a parte i consigli dei maschi ottimi, andate là su quella punta là, così il fuoco arriva esattamente in entrambe le parti. Cioè, hai avuto degli attimi di panico oppure no? No, di panico no, perché l'abbiamo presa molto in anticipo noi, e forse i ragazzi hanno avuto un po' di paura quando non ci hanno più visto e non sapevano dove eravamo. E voi eravate a Porto Vecchio, in capitaneria. Al porto, in capitaneria. Già, sicuro. Non eravate tutte coppie, vero? No, no, assolutamente. E questo fuoco ha aiutato in qualche modo oppure... Ma no, no, non è cambiato niente. Daniela, che cosa è successo da allora nella tua vita? Eri una studentessa, adesso cosa fai? Ero una studentessa, adesso lavoro, mi occupo di selezione del personale, sono sposata, ho 3 bambini che vanno a scuola e quindi... E sei più tornata in Corsica? Sì, sì, sono tornata con mio marito, ma prima che nascessero i bambini, okay. Almeno 2 volte. Ma non là, in quella zona là? Ma sono anche andata lì. Ah. Comunque l'ho girata perché è bellissima la Corsica. Daniela, dicevi selezione del personale fai? Sì. Ma per un'azienda o per un'agenzia? O no, per... è una società che fa consulenza e lavoriamo per i clienti, per le società che cercano personale. Cacciatore di teste? Cacciatore di no, teste, no, sei esatto. Una cacciatrice di teste. È la prima persona, credo, con cui mi capita di parlare. Perché, detto così, sembra un lavoro... in cui ci vuole un po' di, no, di veemenza, di forza, uno che va in giro a cercare i più fighi della terra da distribuire alle aziende più importanti del mondo. La faccio forse un po' grossa. Mamma così mia. Però no, in realtà è un lavoro di pazienza. Cioè, in che senso? Di ricerca? Di ricerca, sì. Adesso con LinkedIn è anche molto più facile. No, non mi puoi dire che usi LinkedIn. Io immagino adesso che cacciatori LinkedIn, di, immagino tutto. Ah, perché io vi immagino in una grotta, capito, intorno a un fuoco e che immaginate i destini del pianeta, invece no. No, noi lavoriamo sempre su incarico del cliente, okay. E dobbiamo cercargli delle persone molto specifiche, sì. Quindi dobbiamo andare a cercare in quali aziende lavorano le persone che sanno fare quella cosa lì, sì. Cercare di trovare come si chiamano, cercare di riuscire a parlarci, cercare di convincerli a venire il colloquio. Tutto in maniera clandestina, ovviamente. Ah beh, sì. Usate, dicevi che, giusto perché dicevi che usi anche LinkedIn, ma ad esempio usate Facebook, usate Twitter, andate a cercare le cose? Allora, Facebook e Twitter lo stiamo usando molto quest'anno per l'azienda, per condividere le cose che... No, no, però io dico proprio per farvi, per scoprire delle cose. No, no, usiamo molto LinkedIn, non usiamo Facebook. Ok, però... Perché a noi ci serve sapere... la persona che cosa fa sul lavoro, in che azienda, certo. Lavora, ma ad esempio, le responsabilità che ha. Daniela, ad esempio, l'ultimo colloquio che hai fatto, senza fare nomi, cognomi né aziende, l'ultimo colloquio che hai fatto, cioè che persona avevi davanti? Ma io mi occupo più della gestione che della parte operativa, mi occupo più anche diciamo del marketing della società. Ok. E ma quindi, scusami, l'ultimo colloquio l'ho fatto per... Ma l'ho fatto per forse un informatico, forse una... Daniela, e poi purtroppo ti devo salutare, però il fatto che esistano società come quella in cui lavori tu significa che in realtà esiste ancora un mercato del lavoro, cioè c'è gente che viene cercata da aziende e che si sposta e che... C'è gente che viene cercata, fa molta fatica a spostarsi in questo momento perché appunto la situazione dell'economia non è brillante e noi stiamo in questi mesi stiamo vedendo una piccola crescita, ecco. Ok. Perfetto, insomma, un piccolo quadro anche del lavoro che fai. Daniela, ti ringrazio molto per la storia. Mi ha molto incuriosito che nella richiesta di raccontare una storia tu abbia mandato una storia di fiamme e di incendio, forse perché in qualche modo ci sono affezionato. Ti ringrazio per la storia, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Ciao, a presto, Daniela. Buona ciao, giornata, ciao, ciao. Anche ciao, a te. Ciao. Siamo al mare, è estate e la macchia mediterranea sta bruciando. È strano come forse tutti quelli che hanno frequentato le coste italiane in questi ultimi 40 anni si siano trovati almeno una volta nelle condizioni di Daniela. Io, insieme ai miei genitori, ho trascorso le mie estati tra l'isola d'Elba e la Sardegna e me ne ricordo bene quegli incendi. E in alcuni casi anche quella paura lontana, che però si avvicina e mette una strana inquietudine. Ero in Sardegna, all'isola della Maddalena, ed era la festa del paese. Era un'estate in cui avrò avuto circa 13 anni e c'erano i fuochi d'artificio. È il gran finale e poi i botti che chiudono la serata. 1, 2, 3. Buio. Silenzio. Applausi. E poi un urlo secco, preciso, terrificante. Al fuoco! Mi giro, tutta la piazza si gira. La montagna sotto guardia vecchia è un muro di fiamme. Qualcuno urla e in piazza torna la luce. Tutti iniziano a scappare. Il presentatore che è sul palco prende il microfono, dice di fare piano, che non c'è pericolo perché il vento spinge le fiamme dall'altra parte dell'isola. Ed è vero, ha ragione. Ma nemmeno io mi fiderei di quel che dice quel tizio lì. Si sentono le sirene dei pompieri andare verso guardia vecchia. Io sono immobile a guardare quelle fiamme arancioni che si allungano, spinte dal maestrale. Non so perché le chiamino lingue di fuoco. Perché, viste così, assomigliano più a delle dita che a delle lingue. Sì, sembrano le dita di decine di mani che si stringono intorno al monte per soffocarlo. Il vento è così forte che qui non si sente il minimo odore di fumo. In un attimo la piazza è vuota. Restano lo scheletro di metallo del palco e le transenne. È bello il fuoco visto da lontano. Non l'avevo mai guardato così bene. È la cosa più forte e devastante che c'è, anche se non ha consistenza. Non è liquido come l'acqua, non è solido come l'acciaio e non è nemmeno molle come il fango. È aria che brucia. Non lo puoi prendere in mano. È lui che avvolge te. Corro verso l'albergo dove trovo i miei genitori in allarme. Nessuno sa cosa fare. Qualcuno dice di scappare, ma siamo su un'isola piccola e per scappare serve una barca. Andiamo tutti intorno alla piscina. Io penso che lì siamo salvi. Poi però scoprirò che si muore per il fumo e non per il fuoco. Alcuni papà bagnano degli asciugamani nell'acqua della piscina e ci avvolgono i figli e le mogli. I miei sono tranquilli e io anche. Poi iniziamo a sentire odore di fumo che fino a quel momento era spazzato dal vento e qualcuno capisce che è perché il vento è calato e ora sta cessando. Il maestrale, che dura sempre giorni dispari, è durato solo un giorno e ora si sente addirittura il rumore, il crepitio del fuoco in lontananza. Qualcuno si agita di più, qualcun altro invece dice che no, che è una buona notizia perché senza vento brucerà di meno. E dopo pochi minuti un aereo giallo con la pancia piena d'acqua la fa piovere sopra la macchia incendiata e la paura è finita. E alla fine, dalla storia di Daniela, ho capito che, primo, chiudere porte e finestre è un adagio che funziona sempre. Secondo, i ragazzi, i maschi intendo, non sono così svelti come si pensa. Terzo, le ragazze, invece le femmine, sono proprio svelte come si pensa. Quarto, a volte un luogo di villeggiatura può essere più pericoloso di un teatro di guerra. E quinto, in fondo, un marsupio, anche se orribile, può sempre tornare utile. The soft remains of what was thought, put and said. All the calcified arithmetists were doing the math. And it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. 349-238-6666. Ha fatto molto colpo della storia di Daniela l'immagine del gatto che salta sui muri e lascia le impronte sulle pareti della casa in Corsica. Sono arrivati diversi messaggi e uno a proposito, Mario ci scrive: una volta ero in campeggio con i Boy Scout, qua non si parla di gatti ma di pecore, ha preso fuoco una tenda, siamo riusciti a spegnere tutto con l'aiuto di un pastore che però nell'incendio ha perso una pecora scappata per la paura. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margheritaina, no, sì, ma comunque Margheritaina anche, sempre e comunque. Grazie soprattutto a Daniela, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Gaspare, vivo a Palermo e la storia di domani è la mia. Parla di un viaggio speciale e di un incontro speciale. Questa è la mia storia e io sono qui.